Thank you. Cambiarsi qual

sono il mio cuore ferito è già e il dolor pure il piano si rintorno mio sarà lo giurai la vincerò si rintorno mio sarà lo giurai la vincerò il tuo cuore ricuserò io l'ingegno abbozzerò alla fin soffrirò e contento resterò se l'intorno mio sarà lo giurai la vincerò se l'intorno mio sarà lo giurai mi lascio reggere, mi fa guidare. Ma se mi tocco dove io devo, sarò una vipera, sarò. E cento troppoli prima di cedere, farò giocare. E cento troppoli. Cento troppo.